Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Benvenuti, benvenuti su Eclettica, un inizio di settimana che mi crea un po' di imbarazzo. Imbarazzo legato al fatto che dopo anni in cui io la aspettavo, finalmente è ritornata Polly Polsmal. Il 21 di maggio è uscito il suo nuovo disco Fingers and Thumbs e subito dopo l'incipit avremo la possibilità di ascoltarcela. Che cos'è l'imbarazzo? Qual è la causa di questo imbarazzo? Perché io l'ho attesa per tanto tempo, l'ho anche dichiarato esplicitamente più volte negli anni all'interno di Eclettica e lei non si faceva viva, ora si è fatta viva. Ma chi è che glielo va a dire che ora c'è un'altra? Che ora c'è Soul Seppi. Era un mercoledì sera dei primi giorni di marzo. Nonostante il clima di quel periodo fosse solitamente ancora rigido, quel giorno il vento tiepido della vicina primavera aveva attraversato per tutto il pomeriggio il cielo, lasciando sulla città una piacevole onda di calore. Anche il velo dello smog quella sera aveva deciso di risparmiarci della sua presenza, permettendo a me e a chiunque altro avesse alzato la testa al cielo di perdersi nelle profondità di un limpido tappeto blu, perforato da migliaia di minuscole luci. La scura e pesante porta blindata dell'edificio in cui lavoravo e dal quale ero appena uscito si era chiusa con un rumore rotondo e potente. Spesso, al rimbombare di quel sordo tonfo, i miei pensieri iniziavano a navigare in mondi in cui esso non esisteva e nei quali io ero un altro genere di personaggio. Le regole che governavano questi mondi non erano sempre coerenti tra loro. A volte, anzi, si contrastavano vicendevolmente, ma tutti i miei mondi immaginari rappresentavano un genere di vita che avrei desiderato conoscere e che ancora non ero stato capace di inseguire. Questo era l'incipit di Sogni, di Andrea Mele. Thank you. keep doing this all the time. I can't help it. I love you. Forrest, you don't know what love is. Quella sera, però, la mia attenzione era concentrata sul cielo e, nonostante le mie orecchie avessero udito quel suono, percorsi il tragitto che mi separava dalla mia auto con una sensazione di calma e di bellezza che riempiva tutto il mio corpo, rubando spazio alle più comuni sensazioni di delusione e di rimpianto. L'impressione di quegli istanti era che avrei potuto evitare di pormi domande. Osservare il cielo e la sua infinita profondità distoglieva la mia attenzione dai dubbi riguardanti le scelte che avevo fatto e che avevano segnato la mia esistenza. Dubbi che in quel periodo mi assalivano quotidianamente e con una frequenza sempre maggiore. L'idea che nacque in me, mentre infilavo la chiave nella serratura della porta della mia auto, era che essere consapevole di appartenere ad un universo di cui faceva parte anche un così candido cielo dovesse essere comunque una gioia, indipendentemente da quanto potesse accadere a quella piccola parte di questo universo che era la mia vita. Mi accorsi che ciò che stavo pensando era sbagliato l'istante successivo a quello in cui l'avevo pensato. Questo era ancora l'incipit di Sogni, di Andrea Mele. She wants to pass over. this rack transfer like a burn trash fusion of blood. She needs her seventh year back, watching the last one rest on the surface. Just tell me, please, what's the matter with you? The difference between us. Just tell me. Eclettica o del come creare un'atmosfera con un flusso di musica adagiata comodamente tra incipit letterari e spezzoni cinematografici. E quanto state ascoltando sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20, altrimenti disponibile in podcasting per un ascolto nel momento e nel luogo preferito. Tutti i dettagli su myspace.com/eclettica e poi di quanto sentite passare in trasmissione potete avere il dettaglio nelle playlist di Eclettica, sempre sul sito che già vi ho citato, oppure direttamente nella casella di posta se iscritti alla lista nera, mandando un mail a giulio@radiorockfm.com. Ci siamo appena ascoltati in sequenza due delle più interessanti prove italiane degli ultimi mesi. Gli ultimi sono stati i Dial It con Beat the Gong e prima ancora, invece, era stata la volta dei Joycat. Ora si torna su David Kirsten Daniels. Just Bye-bye, Jenny. They sending me to Vietnam. It's this whole other country. Just hang on a minute. Listen, you promised me something, okay? Just, if you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Just run away. Okay. C'è veramente molta Italia nel primo volume di Eclettica di quest'oggi, perlomeno in questa prima parte, e non è assolutamente una forzatura, ma perché in questo momento in Italia c'è veramente tanta musica interessante, come quella dei Green Moon appena ascoltati con Mocha e quella dei Giardini di Miro da ascoltare da ora in poi con Ambers.